Allora, sono tutti convocati e siamo tutti a disposizione. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Allora, leggo la classifica che comincia a sgranarsi in testa, malgrado le critiche alla Juventus, malgrado le polemiche interne al Napoli. Oggi due delle potenziali rivali, almeno per stare attaccate, fare corsa di vetta, si sono fermate. La Roma addirittura ha perso a Torino 3-1, l'Inter si è buttata via in casa contro il Bologna 1-1 e c'è un'immagine meravigliosa, poi ve la raccontiamo, di De Boer sull'ultima occasione, la chance sprecata da Ranocchi al 95esimo. La classifica, dicevo, dice Juventus 15 punti, Napoli 14, Inter 11, Roma, Lazio e Chievo 10 col Bologna. Poi questa sera vedremo il risultato di Fiorentina-Milan, che potrebbe anche proiettare il Milan, che in questo momento di punti ne ha 9, al terzo posto in classifica da solo in piena zona Champions League. Dopo l'estate che abbiamo raccontato e che ha vissuto Montella praticamente senza mercato e con una società in fase di transizione, inizio di campionato sorprendente, non tanto perché Juventus e Napoli sono le due squadre più forti di questo campionato, quanto per la difficoltà di tutte le altre di trovare un minimo di continuità. Ne parliamo fino alle 19, 800 24 00 24, i risultati li avete sentiti prima, vi aspetto in diretta fino alle 19, oppure 349 238 6666, se volete scriverci via SMS e via WhatsApp. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Camminano. Juve e Napoli corrono e gli altri, se va bene, camminano. Sì, se va bene camminano. È uno dei temi di giornata, vabbè, quello di cronaca attuale è l'1-1 interno dell'Inter con il Bologna, con, tu hai detto bene, un Inter che si è un po' buttata via. Se vogliamo tornare a ieri sera, c'è una cosa che io non capisco e qui possono intervenire gli ascoltatori, e sono le grandissime critiche ad Allegri più che alla Juventus. Una Juventus che tu guardi la classifica è lì a 15 punti e guarda tutti dall'alto verso il basso. Poi ci sono le polemiche interne al Napoli, che sembrano un piccolo fuoco, però potrebbe diventare un grande falò. E, insomma, è un campionato che vive su questi temi, senza dimenticare un Torino che oggi ha asfaltato la Roma, e questo è un altro dato politico della giornata, mi pare. Sì, Torino che con Belotti è una cosa e senza è un'altra. Andiamo a San Siro al nostro Dario Ricci. Dario. Eccoci qua, Giovanni, 1-1 quindi Inter-Bologna, il gol dell'ex di Mattia Destro al 14esimo, il pareggio di Perisic con uno splendido sinistro al volo, sembrava Gigi Riva, una stampa per la bellezza di questo gol su cross di Banega, e poi l'Inter che ha provato, anche facendo esordire Gabigol, a cercare questo 2-1 risolutivo, ci è andata vicinissima nel finale quando Icardi ha bucato un bellissimo cross ancora di Perisic, e soprattutto Andrea Ranocchia, proprio al quinto del recupero di testa nell'area piccola, ha mandato al lato della porta difesa da Costa. Subito il commento con Mirko Graziano, l'inviato della Gazzetta dello Sport. Mirko, prima di analizzare la partita c'è il caso Kondogbia, sostituito al 28esimo da Gnoccurie, decisione di De Boer. Kondogbia aveva sbagliato in occasione del gol del Bologna, ma insomma dopo mezz'ora tutti sono rimasti un po' a bocca aperta, e poi si sono creati neanche due partiti, perché quasi tutti hanno dato ragione a De Boer. Sì, diciamo che non siamo abituati in Italia a una scelta del genere, però di fatto ha avuto ragione De Boer, perché poi con l'innesto di Gnoccurie l'Inter si è sistemata, ha trovato il pareggio dopo un approccio alla partita inguardabile per l'ennesima volta, ha trovato il pareggio, aveva la gara in pugno. Poi negli ultimi 25 minuti è entrato Gabigol, Inter molto molto sbilanciata, forse troppo sbilanciata, ha sì rischiato di vincere ma ha anche rischiato di perdere, quindi alla fine insomma il Bologna non porta via nulla rubando, ecco. No, ha fatto la sua partita e ha rischiato anche di trovare il colpo del 2-1, perché è una squadra ben organizzata, ben messa in campo, che alla fine insomma ha creato qualche problema lì. Non ha assolutamente rubato niente, però andiamo un attimo al punto della situazione, perché Mirko ha colto secondo me i due aspetti, cioè la scommessa vinta da De Boer togliendo Kondogbia, bene Gnoccurie, E poi secondo me l'azzardo perso da De Boer, perché ha accatastato nell'ultima mezz'ora punte davanti e l'Inter ha perso un piccolo controllo di partita che aveva preso. Mi dai un voto De Boer, Mirko? Sì, però aspetta un attimo, Mirko, aggiungo, sì, sono Carlo Genta, una mossa molto olandese quella di sostituire Condombia dopo 28 minuti, però così distruggi anche emotivamente un giocatore, almeno noi in Italia la leggiamo in questa maniera. Sì, sicuramente, nel senso che adesso dovranno lavorare molto sul ragazzo, però è anche vero che il ragazzo una svegliata se la deve dare, perché non puoi entrare in campo con quella sufficienza. Cioè De Boer prende questa decisione dopo che, al di là del gol, dell'errore da dove nasce il gol del Bologna, forse c'è anche un pallettino su Condovia, ma è proprio l'atteggiamento di tenere palla, di pensare forse di essere Beckenbauer, che nessuno ti attacca. Cioè lui ha avuto un approccio assolutamente inaccettabile, quindi da quel punto di vista ci poteva stare la scelta. Ora dovranno essere bravi anche a lavorare sulla testa del ragazzo, fargli capire subito, insomma, non è che sei stato sostituito, ma fai sempre parte, in fine conti è pur sempre la prima alternativa, e De Boer l'ha dimostrato, è stata la prima alternativa in assenza di Vanega squalificato e la prima alternativa oggi in assenza di João Mario. Il voto a De Boer, il voto a De Boer gli do 6 alla fine, ma secondo me ha sbagliato a sbilanciare così la squadra. Certo. Piuttosto aveva senso di più togliere Perisic, piuttosto che Candreva, che dava un minimo di equilibrio in più. Non aveva senso sbilanciarla così, perché l'Inter aveva in pugno la gara, quindi era solo una questione di tempo trovare il gol. Così, certo, ha creato tante occasioni, ha buttato tante palle in mezzo, però ripeto, ha rischiato tantissimo e alla fine il Bologna ha avuto un paio di occasioni clamorose. Sì, clamorose, prima della occasione più clamorosa di, esatto, tutte, che è quella di Renault, che ve la raccontiamo questa scena, l'ha fatta vedere Premium con le sue immagini. C'è De Boer che si getta per terra e picchia. A proposito di De Boer, vi faccio sentire subito l'inizio a Premium, l'inizio dell'intervento di Frank De Boer. Per il vantaggio del Genoa. Allora, adesso recuperiamo l'audio da Mediaset Premium con Frank De Boer, che ha preso malissimo, per fare una battuta, l'errore di Ranocchia di testa da 3 metri al 95esimo. Diciamolo, perché è stato uno dei migliori in campo alla fine, dopo un inizio difficile anche per lui, ha messo insieme una settantina di minuti di altissimo livello dietro in chiusura. E poi probabilmente a volte anche la sfortuna che ti sta proprio addosso. La zuccata sembra abbastanza logica. Ma è un errore grave. Diciamo che il gol è un errore, il gol mancato è un errore grave. Però insomma, stiamo valutando la prestazione nel complesso, sì, tra le più positive. Assolutamente. Sì. Vediamo se riusciamo a sentire De Boer. Per vincere e per ho visto una squadra che lavora durante 90 minuti e questa è una segnale molto positiva e in gli ultimi minuti contro la transizione negativa il Bologna ha fatto la sua occasione, però sto contento con il lavoro. Questo è il primo De Boer che si dice contento di quello che ha fatto oggi l'Inter. In tanti scrivono 349-238-6666 che partita avete visto, l'Inter ha avuto 6-7 palle gol, quelle del Bologna non erano clamorose, per carità. Sì, ma era anche sotto 1-0, quindi mancherebbe altro. Quanto a Ranocchia, ha ragione Mirko, non fa il centravanti di professione, fatto sta che quello è è il classico gol sbagliato, perché insomma, un rigore di testa in movimento, potremmo dire. Sì, assolutamente. Dario, mi dici un po' la reazione invece di San Siro? Ma devo dire che è un San Siro che ormai direi che De Boer l'ha conquistato quel popolo nerazzurro, forse anche con quest'ultima decisione. È un po' una via di mezzo tra il sergente di ferro e anche il luminare tattico, che prova a vivere su, paga in prima persona per le sue scelte e incassa i dividendi quando vanno bene. Direi che San Siro comunque non ha certo fischiato quest'Inter, perché il gioco si vede, cioè si vede l'intelaiatura, si sono viste le occasioni, perché come ricordavamo, chiaro, l'errore di Ranocchia, ma c'è stato parate di Da Costa, ma anche per esempio un buco di Icardi proprio nel finale, che è stato insomma altrettanto clamoroso, un bel cross di Perisic. Cioè quest'Inter ha un'intelaiatura e anche i giocatori, e poi stiamo anche dimenticando che ha dovuto rinunciare proprio all'ultimo minuto sia a Murillo che a João Mario, soprattutto João Mario, Insomma, si è capito oggi quanto è importante, perché quando non c'è la palla gira con tutt'altra velocità o lentezza, fate voi. Evidentemente giocatore fondamentale per questa Inter. Grazie Dario, 800 24 00 24. Adesso abbiamo la pausa per il traffico e poi torniamo e continuiamo a raccontarvi questa giornata. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Niente, le critiche all'Inter non piacciono a casa, e invece secondo me l'Inter ha fatto una partita con tante occasioni, ma anche con alcuni errori, e non solo quello di Kondogbia, perché sul gol ad esempio del Bologna, sul gol di destro, secondo me c'è anche un grave errore di Handanovic, che si fa passare la palla praticamente sotto le gambe, c'è l'errore di Ranocchia finale, c'è un errore secondo me altrettanto grave di Icardi, due minuti prima di quello di Ranocchia, con Icardi che liscia un pallone che arriva, e forse c'è l'errore di De Boer nell'ultima mezz'ora di mettere la squadra con il 4-2-4, sbilanciarsi e rischiare anche di perderla, perché negli ultimi 20 minuti il Bologna è stato pericoloso. 800 24 00 24. De Boer che invece prende 8 secondo me per il tentativo di parlare italiano dopo un mese che bene, è qua, sì. Assoluto, sì, sì. Torniamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Intanto continuiamo a tenere d'occhio Frank De Boer, vediamo se riusciamo a carpire la risposta sul cambio di Kondogbia. Dario, eccoci qua, siamo un altro ospite, amico e collega del Corriere dello Sport. Aspetta, Zara, aspetta, ecco qua che c'è la risposta su Kondogbia. No, capire. A sentire, per me questa mattina abbiamo parlato sopra questa cosa, e quando no vuole ascoltare, dove devo sentire. Quindi non l'ha seguito durante la partita? Che? Non l'ha seguito, he didn't follow you? No, no durante la partita, però è una occasione in la partita che è decisivo per la stasera. Non è la prima volta che ho parlato sopra questa cosa. E che io dico, quando non chiede ascoltare, tiene che deve sentire una parola in Olanda, e non so come ha detto acá, però. Com'è in inglese? No, come sarebbe in inglese? If you don't want to listen, you have to feel it, you know? And to feel it is to take him out. Se non, okay. Non vuoi sentire, devi comunque sentire, ok? Sennò ti tiro fuori, questo è il concetto. E quindi De Boer ha messo una pietra. Listen and feel. Tombale. La differenza. Sopra Kondogbia. Se non vuoi ascoltare, prendi e vai a seguire la partita negli spogliatoi. Dario! Eh sì, insomma, esplicita ben più delle parole in italiano. Il concetto espresso da De Boer a proposito di Kondogbia. Con Furio Zara, il Corriere dello Sport, allarghiamo un attimo il discorso alla giornata. Furio, firma del Corriere dello Sport, immagino che la sconfitta della Roma a Torino sarà sicuramente stigmatizzata sulla prima pagina di domani. Certo, buonasera a tutti, questa è una giornata innanzitutto che ci dice che ha vinto chi non ha giocato. La Juve adesso ha più 4 sull'Inter, più 5 sulla Roma, il Napoli più 3 sull'Inter, più 4 sulla Roma. Per la Roma si tratta dell'ennesimo salto di qualità mancato e rischia veramente di diventare una lunga teoria di rimpianti fin dalle primissime giornate, quali sono quelle giocate fino ad ora. Ma questa rosa vale le migliori, perché la Roma giallorossa sembra convinta di sì, Spalletti dice di sì, personalmente penso di no. Ma siamo già in due, perché anch'io penso di no, penso che la rosa ovviamente della Juve sia superiore, il Napoli abbia già una struttura di gioco sicuramente superiore alla Roma, e la qualità dei giocatori dell'Inter è superiore a quelli della Roma, fanno già 3 squadre. Non serve a niente vincere col Crotone 4-0 se poi a Torino si inciampa in una partita che in realtà la Roma avrebbe dovuto gestire molto meglio, invece sono emersi i soliti errori. Sì, Furio, io credo che non sia convinto nemmeno Spalletti. Cioè, io penso che Spalletti sia uno che di calcio mastica, e se tu perdi Pjanic, perdi un difensore importante per sfortuna come è stato per Rudiger, e davanti ti rinforzi il minimo sindacale, io credo che quando lui dice questa è la rosa più talentuosa che ho in mano, probabilmente lo fa per evitare di deprimere l'ambiente, per caricarlo, per mille altri ragionamenti, ma dentro di sé credo che difficilmente ritenga di poter essere superiore a Juventus e Napoli. Ma no, come può essere superiore a Juventus e Napoli? Il problema è essere superiore anche all'Inter, mi pare, no? Perché nonostante l'1-1 di oggi, sul banco degli imputati sale in questa giornata certamente la Roma. Ecco, Furio. Sì, convincersi di essere all'altezza delle avversarie probabilmente è l'unica carta che può giocare Spalletti in questo momento, ma la Roma in questo momento è inferiore alle avversarie. Il fatto che stiamo ancora a parlare del gol di Totti ha segnato su rigore, 250esimo gol in Serie A, in un istante in qualche modo manifesta quelli che sono i limiti di questa squadra nella costruzione del gioco e nella mancanza di alternative anche nella fase offensiva. La Roma ancora una volta si trova in ritardo e credo quello che registra ancora questa giornata è una mediocrità generale, un appiattimento di valori verso il centro classifica. Credo ci dovremmo abituare fin da subito a un duello Napoli-Juve fino alla fine del campionato, ecco, se l'Inter non saprà superare i limiti che ha dimostrato anche oggi contro il Bologna. Sì, poi vediamo quanto dura il confronto Napoli-Juve. Sì, il confronto Napoli-Juve che ha una favorita che è la Juve, però speriamo resti stuzzicante. Ma chiedo a Furio, che oggi era San Siro, che giudizio dà della partita di De Boer? L'abbiamo analizzata prima. Il grande coraggio nel togliere Kondogbia, abbiamo sentito anche le parole, ma anche quella scelta nell'ultima mezz'ora tatticamente molto olandese di ammassare punte, che però ha riportato in partita il Bologna. Sì, una scelta alla Mourinho, se mi permetti, nel senso che nel momento di difficoltà ci si aggrappa proprio alla quantità, cioè al maggior numero di punte in campo. In realtà non è stata questo, ancora secondo me dimostra che De Boer non ha capito il campionato italiano fino in fondo, cioè il Bologna squadra organizzata poteva arrivare sicuramente a vincere nel finale di partita, avesse avuto più fiato e magari più lucidità anche negli ultimi 20 metri. In realtà la bocciatura di Kondogbia dopo 28 minuti è lì a dirci che questo allenatore non è italiano, per fortuna, nel senso che ragiona con la sua testa, boccia un giocatore che in 28 minuti ne ha combinate di tutti i colori, e sono 37 mi sembra i milioni che adesso bisognerà in qualche modo giustificare. De Boer sta prendendo le misure del nostro campionato e quindi sta cercando di capire anche contro chi sta giocando. Si è trovato impreparato per esempio nella prima mezz'ora contro un Bologna che soprattutto con Verdi partendo da destra metteva in grandissima difficoltà la retroguardia dell'Inter, però mi sembra l'unica squadra tra quelle di vertice, ovviamente escluse Juve e Napoli, che abbia ampi margini di miglioramento, cioè ha talmente tanta qualità e talmente tanti giocatori che può soltanto migliorare. Vi rubo 30 secondi se mi raccontate e date un voto ai 16 minuti più recupero di Gabigol. Sintetizzo con un 6 meno, perché la voglia ce l'ha messa, anche provato a esaltare il pubblico, insomma si è vestito subito i panni del trascinatore, però ancora si è visto poco. Primo pallone di Gabigol ha tentato un doppio passo, già lì voleva dirti io ci sto provando a farvi ad accendere la scintilla. In realtà insomma è sembrato un corpo estraneo in una squadra tra l'altro che De Boer aveva cambiato e non era adatta alle caratteristiche di Gabigol nell'ultimo quarto d'ora, che sono da capire le caratteristiche di questo giocatore. Secondo me al momento grande talento ma un po' pagliaccesco. Sì, lo dimostra, ripeto, il fatto che è partito con un doppio passo assolutamente inutile, cioè una finta e controfinta a 40 metri dalla porta. Al di là di questo, ritengo che Gabigol sia un valore aggiunto per questi Inter, insomma, trovare il modo di inserirlo nei meccanismi offensivi dei nerazzurri sarà compito di De Boer, ma sicuramente porterà dei vantaggi a questa squadra. Grazie Furio, grazie Dario. Un saluto. Ciao ragazzi. Grazie a Furio Zara, grazie a Dario Ricci da San Siro. Qualche messaggio è arrivato al 349 238 6666. c'è chi dice che la Roma senza i rigori si troverebbe ultima in classifica, per carità, a parte che oggi il rigore non è servito perché la Roma ha perso comunque. Poi Roberto da Belluno, che quella di ieri sia stata la partita più brutta della Juve negli ultimi 30 anni. E questo è un tema stuzzicante, tornando alla battuta di Allegri di settimana scorsa. Ieri Juve bruttina. Sì, ma bruttina, Giovanni. Il discorso è sempre il solito: ci fosse stato Conte sulla panchina della Juventus, per la juventinità sarebbe stata comunque una partita diversa, vista con occhi diversi. Avrebbero tutti detto: quelli forti vincono alla fine di settembre, a quest'ora, giocando male. Invece Allegri è stato subito messo in croce, manco avesse perso 4-0 a Palermo. Ha vinto, è primo in classifica, ha 15 punti, che deve fare di più? Sì, rispondo ad Ulisse che chiede quanti saranno i juventini contenti della Juve di ieri sera. Io credo in generale non tanti, perché i tifosi pochissimi, della Juve si sono abituati pochissimi ad altro. E sono tornate tante critiche per Allegri, che è un altro dei temi che tocchiamo. Siamo qui fino alle 19, 800 24 00 24 oppure SMS e WhatsApp. Vi aspetto 349 238 6666. Tutti convocati. Se vuoi a Milano vuol dire che sei di burro. Sa me che dura poco quello lì a Milano il sole, eh? Tecnologie e logistica di magazzino Modulblock. Avanti anni luce. Vi presenta. Tutti convocati. La miglior prestazione della stagione, vista anche la forza dell'avversario. Oggi in campo c'erano 11 tori, come piace a me. Abbiamo fatto 3 gol, abbiamo preso un pallo, abbiamo creato altre 4-5 occasioni, e soprattutto abbiamo concesso anche poco alla Roma. Penso che la vittoria è meritata. Purtroppo la nostra storia dice questo, che non riusciamo a mantenere un livello di impegno, un livello di sforzo, di ricerca proprio. Alterniamo, abbiamo degli alti e bassi e questo va sicuramente poi levato durante la settimana, perché l'allenatore, se c'è questo andamento alto e basso, è il primo ad essere colpevole. Non gli fa abituare l'allenatore a questo andamento regolare. Io, se devo dire la verità, non sono d'accordo con la lettura che dà Spalletti sugli alti e bassi della Roma, soprattutto in campionato, ma adesso ne parliamo. 800 24 00 24. Giovanni, mi permetti anche di sottolineare la grande partita del Torino, perché stavo ascoltando Mihajlovic. Cioè, il Torino è una cosa seria, è una squadra costruita per comunque per un campionato, non ti dico da Champions League ma da Europa League di sicuro. Oggi ha giocato una grande partita, è chiaro che balza all'occhio il rendimento della Roma, però non dimentichiamo i meriti del Toro. Assolutamente, la Roma ha perso 2 trasferte consecutive, in mezzo c'è 4-0 col Crotone, ma su 2 campi oggettivamente difficili, e secondo me il ragionamento è un altro. Saluto Roberto Renga e gli chiedo di pazientare qualche istante. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao, buona domenica. C'è Enzo da Perugia, 800 24 00 24. Enzo. Sì, buonasera. Prego. Intervengo. Aspetta Enzo, perché si sente malissimo. Se sei con l'auricolare o in viva voce, no. Mettiti in una posizione migliore. Vediamo se è migliorata la voce. Prego. Enzo? No. Recuperiamo sicuramente la linea. Roberto Renga, sulle parole invece di Spalletti. Io dicevo, non sono completamente d'accordo, perché la Roma non ha avuto con Spalletti alti e bassi. La Roma ha perso 2 partite in una settimana. Prima di questa doppia sconfitta veniva da una striscia di 20 partite con 16 vittorie e 4 pareggi. Il problema, credo, è che questa Roma ha una qualità che non è eccelsa, e quindi tu a Firenze e Torino puoi anche perdere. Allora, guarda, io ti faccio una sintesi. È vero che era molto tempo che non perdeva, ma parliamo di campionato, ma in realtà esiste anche l'Europa, come sai, e nell'Europa ha preso 3 schiaffi la Roma, Roberto, dal porto. Quella è stata una tramvata che non possiamo dimenticare. No, questo conta moltissimo. È vero che da quando c'è Spalletti la Roma è andata un po' meglio, ma ricordiamoci che nelle ultime giornate dell'anno scorso, se non chiede aiuto a Totti, no, che era un ex giocatore, eccetera, eccetera, inutile che rimanghiamo, e la Roma avrebbe avuto 9 punti in meno. Quindi è da quel periodo che qui si cerca la Roma. Nel frattempo che cosa è successo? È successo che, come sappiamo, la società è altro per la testa, no? Le sappiamo, la cittadella dello sport, eccetera, eccetera, di pallotta, così. La campagna acquisti doveva essere rafforzata, la difesa, e sono state prese 3 riserve, Juan Jesus, riserva dell'Inter, Vermaelen, che non giocava e si sa adesso lo stanno scoprendo nel Barcellona, stanno scoprendo perché, e Fazio, che non giocava nemmeno lui. È difficile rafforzare una difesa con 3 riserve. Poi mettiamoci l'infortunio di Mario Rui, questo non possiamo mettere per dare la colpa a nessuno. Il fatto che è stato preso Perez, che è un bel giocatore, una bella ala, non è un terzino. Già Florenzi non è un terzino, adesso va a finire che tu come difensori hai delle riserve per lo più, un Manolas che ha altro per la testa perché vuole andare via, vuole guadagnare di più, eccetera, e delle ali, ed è una difesa non protetta dal centrocampo, perché Strootman sta recuperando piano piano, ma bisogna dargli del tempo. De Rossi non è certo un mostro di mobilità, e Nainggolan è stanco. Viene fuori che l'unico schema è palla di Florenzi a Dzeko, e poi Dzeko sarebbe veramente un grande centravanti se il calcio non prevedesse il gol. Sì. E ahimè lo prevede. Ogni tanto capita di doverlo fare. Sì, il calcio è strano. Sì, però tutto questo secondo me riporta alla lettura iniziale di Spalletti, che in questa stagione ci ha detto che questa, ma ne parlavamo prima anche con Fulvio Zara, cioè questa era la Roma più talentuosa mai allenata, che la rosa assolutamente lo soddisfaceva. Io credo, nemmeno credendoci lui, sono dichiarazioni quasi obbligate, io credo, queste di Spalletti. Però l'ha detto e nessuno l'aveva obbligato a dirlo. Lui a un certo momento da solo, io me la ricordo, la conferenza stampa dice: questa è la squadra più forte che io abbia mai allenato ed è una squadra che mi soddisfa in pieno, eccetera eccetera. Oggi ci viene a dire che è una squadra in cui ci sono delle menti malate, che è una definizione durissima, sinceramente. Io quando l'ho sentito poi ho detto: ma forse ho sentito male, sono andato a leggere. Ha detto menti malate, l'ha detto più volte, quindi non è che gli è scappato. Menti malate dura, ragazzi, sinceramente. Sì, è una definizione qualcosa. Che avrebbe bisogno di qualche spiegazione in più, secondo me. Sì, no, sì. Io ti dico che io conosco molto bene Spalletti dalla esperienza precedente, e quindi lo conosco perché ci lavoravo insieme, ed è difficilissimo lavorare con Spalletti perché Spalletti è molto permaloso. Spalletti è un ottimo allenatore fino a quando le cose vanno bene. Quando vanno male è uno che vede i nemici dappertutto, è uno cui scappano anche dichiarazioni di questo tipo. Menti malate, io non me la ricordo una dichiarazione del genere. Ma non solo, Spalletti quando le cose non vanno bene ci ha anche raccontato che questa è una squadra che non ha nessun tipo di carattere. Perché rifarsi al carattere di Totti significa sostanzialmente certificare che questa è una squadra che è ben lontana dal superare il problema della leadership di Totti, ammesso che sia un problema, perché abbiamo visto in settimana dei dati su come si sta riciclando Totti anche in fase difensiva, io li trovo davvero sorprendenti nella settimana dei suoi 40 anni, e registro che anche Spalletti, e non solo Spalletti, ha smesso di considerarlo un problema Totti. No, poi non dimentichiamo, non dimentichiamo che per Roma, per la Roma romanista, giallorossa, e per l'ambiente romano, Totti è e rimane un enorme parafulmine. Quando le cose non vanno bene, metti Totti e poi altri 10. Ma quante volte ha parato i fulmini? Da quando è stato mandato via da casa sua l'anno scorso, no? Il fatto clamoroso successo, venne mandato a casa. Da quel momento in poi non ha fatto altro che parare i fulmini. E la Roma si è illusa su questo fatto. Dice: ma vedi, in fin dei conti vinciamo le partite, ma andiamo a vedere come l'hai vinte, con Totti che entra 3 minuti dalla fine ti fai 2 gol. No, è inutile che adesso ricordo la storia. È la storia della scorsa stagione. Non si è intervenuti. Che questa sia una squadra di alti e bassi umorali è un dato di fatto, ma c'è anche un allenatore che è fatto di alti e bassi, e secondo me, come in tutte le occasioni, sempre, le squadre rispecchiano il carattere dell'allenatore. È questo che si è dimenticato di dire Spalletti. Le squadre sono sempre figlie dell'allenatore. Oggi, per esempio, il Toro, che ha fatto una partita meravigliosa, gli facciamo i complimenti ovviamente, rispecchiava il carattere di Mihajlovic, che non è uno morbido come sappiamo. Forse non sarà il miglior tattico del mondo, eccetera, ma di carattere ne ha da vendere. E oggi il Toro era il Toro di Mihajlovic. Sì, poi era anche il Toro di Belotti, non solo per i gol. Io vi do due dati per far capire quanto pesa Belotti dentro il Torino. Con Belotti ha fatto la media di quasi 2 punti a partita. Il Toro segna 2,5 gol a partita, senza Belotti 0,5 punto di media a partita e 0,5 gol. Ora, per carità, siamo all'inizio della stagione. Però ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che vuol dire tanto tantissimo. Grazie Roberto. Ciao Roberto. Grazie a voi, buona Ciao, domenica. Alla prossima. Grazie Roberto Renga. Dunque un cordiale saluto agli amici di tutti i convocati weekend, al senatore Maurizio Gasparri. Ah, è tornato da noi. Contento. Io sono tornato. No? Devo dire con la solita consueta sportività e pacatezza che contraddistingue i miei interventi sia in Parlamento sia i miei tweet. Ecco che mi appresto a cinguettare, faccio un tweet, lo faccio qua in diretta a tutti i convocati. Ma no, l'ha già scritto prima. Allora, chiocciolina, Sabatini, # comprabrocchi, # confuso e felice, # pallotta, pensa ai grattacieli, e io con pacatezza, con la massima pacatezza e sobrietà, gli dico, sto cazzo pensa a Roma, c'è # Spalletti, pazzo e gelosia di tutti, ma io gli dico sempre con la massima sportività e pacatezza, ma Totti te fa una pippa, te fa, capito? Ma è morto di sonno, è morto di fame, questo, e se può mica andare avanti così. Questo è il nostro Andro Mercu, ma ha fatto anche di peggio Gasparri, ha scritto che pallotta, andate a vedere, ha scritto che pallotta, invece di pensare grattacieli deve costruire un carcere e chiudercisi dentro. Beh, penso che sia il minimo. Io penso sportività e pacatezza. No, esattamente, bravo Genta, per fortuna Genta, certo, che è un mio grande lettore, sì, fra le altre cose che io non ringrazio. Penso, ma comunque, ecco, mi sembra che sia una soluzione auspicabile questa di costruire questo carcere e metterci dentro tutta sta gente a morte di sonno, a morte di fame, fate qualcosa perché io perdo pazienza, va bene? Enzo da Perugia, vediamo se abbiamo recuperato la linea in maniera ascoltabile. Enzo. Sì, mi sentite? Dai, insomma. Un pochino meglio, sì. Sì, pochino. Mi rifaccio soltanto all'espressione che ha usato prima Roberto Renga, sì, in merito alla squadra che assomiglia al proprio allenatore. Ecco, la Juventus purtroppo, che è nettamente la squadra più forte che c'è, ma cioè, abbiamo un allenatore che riequilibra perfettamente tutto il resto, con le sue scelte costantemente pallide. È un allenatore pavido, è uno che ha paura. Allegri stai parlando. Sì. Ma santa Madonna. Ma che deve, ma ascolta, sì, ma cosa deve fare per piacere agli juventini Allegri? Cioè, deve vincere tutte le partite 8-0. Cioè, due stagioni, due scudetti, una finale di Champions. Che deve fare sto ragazzi? Sto... Ma gli hanno messo la squadra più forte per le mani. Vince anche con Paperino in panchina la Juventus in Italia. Con Paperino vediamo, perché in Italia sai benissimo che vincere non è semplice, ma è inutile usare delle frasi fatte. Però Allegri, primo in classifica, siamo alla fine di settembre, cosa deve fare di più? Deve andare a Palermo e vincere 8-0? Tutti parlavate dell'impossibilità praticamente del calcio italiano di contrastare la Juve. Sì. Perciò non mi sembra che stia facendo niente di eccezionale, ha per le mani la squadra più forte. Va, non, anche soltanto che dal punto di vista psicologico non si rende conto quello che significa per gli juventini la partita con l'Inter, che noi definiamo i prescritti, cioè odio puro da parte nostra verso loro e da parte loro verso noi. Mi chiede Higuaín in panchina per farmi giocare Mandzukic. Sì, ma questo è il tema di una settimana fa, Enzo. Cioè, ma per carità, è stata una scelta sbagliata ed è stata criticata. Ieri ha provato Higuaín e Mandzukic, secondo me non è il massimo delle soluzioni, però è anche legittimo che a metà, fine settembre, un allenatore faccia qualche esperimento anche con la rosa che ha. E poi alla fine, perdonami Enzo, parlano i numeri. Anche questa Juve che non sta piacendo, non ha ancora trovato la quadratura per tutti i problemi, è prima in classifica, le partite ne ha 25 su 6, insomma, a me sembra che i risultati abbiano un senso poi anche nel tirare una riga e fare un primo bilancio. Grazie, comunque c'è Federico da Udine. Federico, sì, ciao. Aspetta perché abbiamo il traffico, un minuto torniamo e ripartiamo da te. Grazie. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso. Tutti convocati. Nessuno di noi ha detto che De Boer non capisce il calcio italiano perché ha messo fuori Kondogbia, che è stato pagato 37 milioni di euro. Rispondo a un amico che ha scritto via WhatsApp 349-238-6666. Noi qualche critica la stavamo facendo sulla mezz'ora finale, con ammassate tutti gli attaccanti, il 4-2-4, Gabigol, Eder, Icardi insieme, ha tenuto dentro Perisic, e alla fine il Bologna, che stava soffrendo, è tornato a essere pericoloso. Federico da Udine. Sì, ciao, innanzitutto eccoci. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo riallacciarmi anche al discorso precedente del tifoso juventino. Due considerazioni. Io penso che quest'anno Allegri e il suo staff abbiano avuto un po' troppa paura degli infortuni e siano indietro di condizione, perché si vede che sono indietro di condizione fisica anche i difensori, nonostante comunque l'età che hanno. L'unica critica che si può muovere è non provare i giocatori Piazza, ad esempio, che è un giocatore che secondo me può giocare in più ruoli e può dare più riferimenti ad Allegri, magari anche facendo riposare lo stesso Dybala, non facendo giocare Mandzukic con Higuain, che sono ieri stati inguardabili tutti e due, ma non per causa loro, secondo me, ma proprio perché sono incompatibili assieme. Questo è quello che volevo. Sì, in linea teorica non è sbagliato, ma io credo che il ragionamento sulla condizione fisica della Juventus che fa Federico in realtà sia un valore aggiunto su questo inizio di stagione della Juventus, che l'anno scorso ha sofferto e tanto il fatto di aver anticipato tutto per la Supercoppa contro la Lazio, e in tanti giustamente abbiamo criticato Allegri per gli infortuni e non solo. La Juve anche in questa condizione, ripeto, ha vinto 5 partite su 6, a maggior ragione trovo strane tutte queste critiche, tutto questo accanimento su Allegri. C'è anche un caso arbitrale clamoroso, dopo le 18 ne parliamo, riguarda il Genoa e c'è lo sfogo del presidente Preziosi, ve lo faremo sentire. Apriamo però una parentesi sulla MotoGP. Mi devo gestire, ma comunque qui a Aragon al calendario era un punto in rosso di qua ci vuole attaccare un po'. È così, no? In campionato, se il secondo va prendendo punti, in questo caso Valentino andava prendendo un po', ci vuole fermare e dai, penso che è stato importante prima di andare alla ruta asiatica. Può valere ambire anche alla seconda posizione, posto che matematicamente puoi anche vincere il mondiale, cioè non è che io voglio assolutamente... Sì, può valere molto, anche perché è l'unica cosa che possiamo fare, quindi la facciamo valere molto. Piacerebbe lottare per la vittoria in tutte e tre le gare, amo la tripla, sono tre piste che mi piacciono moltissimo, tre piste dove la nostra moto di solito va forte, anche se siamo un po' preoccupati e dobbiamo lavorare, perché comunque noi con la Yamaha non vinciamo più da Barcellona, dobbiamo capire come fare per andare un po' più forte. Questi Lorenzo e Valentino Rossi, Roberto Ungaro, ciao. Ciao, un saluto a tutti gli radioascoltatori. Ciao Roberto, oggi... Ciao Carlo. Oggi Marquez ha smesso di fare ragioniere e ha detto: ragazzi, fate i bravi, vi metto in fila tutti. Ha cominciato fin da subito in questo weekend di Aragon, ha fatto la voce grossa. E il dato politico, secondo me, è che il suo capolavoro sarà quello di vincere con una moto inferiore alla Yamaha, come d'altra parte Valentino Rossi sottolineava. Detto questo, la medaglia d'argento non conta nulla. Lì Valentino Rossi ha detto una grande bugia, perché il secondo non se lo ricorda nessuno. Il secondo è il primo dei perdenti, come bravo sempre. E quindi, grande gara comunque, tensione all'inizio, quando Marquez è passato indietro, che ha recuperato, quando ha rischiato di cadere, e poi abbiamo visto una grande guida. Abbiamo visto la sua Honda che è cresciuta tanto, infatti Yamaha, come ha detto Valentino, non vince più da Barcellona. E quindi la Honda ha recuperato tantissimo. Vederlo guidare lì dentro, come entrava e come faceva le S, una cosa meravigliosa. Io direi che con un Marquez e una Honda così in palla c'è veramente ben poco da fare. La matematica ci tiene aperta la speranza, ma adesso i punti sono 52, abbiamo ancora 100 punti in palio, mai dire mai nelle corse, però il capitolo campionato qui ha preso una direzione unica, niente da fare. È risorto anche Lorenzo, bella la battaglia fra i due, Vale ci ha provato, ma è arrivato lungo e Lorenzo ha stretto i denti e questa volta ha chiuso tutte le porte. È un secondo che avete visto, era felice quasi come una vittoria, è come se avesse vinto, perché è risorto, è rinato proprio. Disfatta invece Ducati, questo va detto, bisogna capire quanto contano le gomme in questo. Iannone non c'era, però la Ducati sappiamo che anche grazie alle sue appendici è molto faticosa da guidare, perché ha molta deportanza e i piloti si lamentano molto di questo, quindi c'è da capire, perché Ducati non può fare un risultato del genere. Dovizioso assente non ingiustificato, c'è da capire quanto siano i problemi tecnici, però è brutto vedere una Ducati lì. Sì, abbiamo purtroppo un minutino, riusciamo a sentire Valentino Rossi su Lorenzo, poi tanto domani con Roberto Ungaro avremo modo di approfondire tutto. Roberto, ti faccio sentire Valentino Rossi su Lorenzo. Quando sei arrivato lungo, quello non era un tentativo di sorpasso, perché lì non è che si può pensare di passare, o ci avevi pensato? No, quando sono arrivato lungo purtroppo ho sbagliato, dopo 50-60 metri dalla frenata ho capito che non mi sarei fermato e quindi sarebbe stata una roba brutta prenderlo pieno e cascare tutti e due, quindi non è, ho pensato che era meglio di no, e anche se avrebbe avuto comunque il suo fascino. Hai capito, Roberto? Avrebbe avuto il suo fascino prenderlo in pieno. Ha pensato alle conseguenze, perché già c'è la c'è accesa fra i due, quindi immaginiamoci un altro contatto. Però ci ha provato, lui aveva una moto settata per la prima parte di gara, sul finale era inferiore Lorenzo, e quello che fa piacere vedere che non ha rinunciato, lui ci ha provato comunque e poi vabbè è arrivato lungo, niente da fare. Però la battaglia c'è stata. Sì, c'è stata. Sì. E anche con un pizzico di malizia, lo ha detto chiaramente. Grazie Roberto, domani. A voi un saluto a tutti, domani. Grazie Roberto Ungaro, 800 24 00 24. Adesso c'è il GR, poi torniamo e vi facciamo sentire Preziosi, che ce l'aveva con l'arbitro Errati, assolutamente ha ragione. GR. Ragazzi, ci sono, fra poco, tutti convocati weekend, 800 24 00 24. Se becchiamo fra poco, I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Siete tutti convocati. Convocati. C'è un rigore e un gol al primo minuto, portato via con la mano, lui piazzato, non ha visto, nessuno vede, ma cosa vengono a fare in 5 in 6? No, forse non ve ne siete accorti, ma guardate, il primo gol, la prima azione è una palla che ormai è andata dentro che lui porta via con la mano. C'è un rigore e un'espulsione. Ha chiesto spiegazioni? Sì, ma non me ne dà spiegazioni, ovviamente. Sta zitto, sta. Vorrei che mi desse spiegazioni. Qui c'è un atteggiamento, è stato sbagliato tutto, perché abbiamo avuto ammonizioni, non è tanto adesso ti lamenti quando ha avuto il rigore a fondo, non è questione dell'episodio, lì c'è la partita a secondo minuto era già finita, veramente punitivo nei nostri confronti, assurdo. Se vuoi pescare lo voglio tenere in Serie A, bisogna che le faccia i punti sul campo, una volta con Sassuolo, una volta con Torino rimane in 11, con noi ci fa rimanere in 9, forse boh, non lo so, forse il Radio ha bisogno di riposare, ma tanto però. Oh, questo è il capolavoro della domenica. Mia, l'avete riconosciuto, è Preziosi. Siamo all'ennesimo dossier stagionale sugli arbitri. Giovanni. Saluto per Luigi Pardo. Ciao Piero. Ciao Piero. Come va? Prima di sentire tutto. Preziosi, meglio no, posso dirti. Voglio dire due cose. La prima è che il signor Preziosi tre giorni fa non si è lamentato dell'arbitraggio di D'Amato, bravo, in Genoa-Napoli con due rigori, bravo, per il Napoli. Ma io invece credo che Preziosi abbia dentro di sé il retropensiero che le polemiche arbitrali che ci sono state dopo quella partita in qualche modo possono aver posizionato. Ognuno ha un retropensiero dentro di sé, io posso capire tutto, ma che Preziosi ci venga a raccontare che i poteri forti vogliono tenere il Pescara in Serie A, sì, e adesso è abbastanza ridicolo. Si può digerire questo discorso quando si parla magari di sudditanza, di che ne so io, lotte scudetto, e interessa più che in Champions vada una grande piuttosto che per mille motivi, ma che si stia facendo di tutto per tenere il Pescara in Serie A, detto il 24-25 settembre, siamo oltre. Fa abbastanza ridere, sì, fa sorridere. Anche se in realtà quei tre punti col Sassuolo sono abbastanza un'anomalia, ovviamente dovuta a un problema di carattere burocratico. Tra l'altro credo ci sia ancora un appello. Sì, sì. Vedremo quando andrà a finire, no, ma questa è anche un po' l'adrenalina post-match che porta a dire delle cose abbastanza inconsulte. Preziosi non è il primo e non sarà l'ultimo, no, credo. No, no. Sì, ma non è nemmeno uno sbarbato, Pierluigi. Ma no, ma non è questione, ma nessuno... Non è che bisogna essere sbarbati per dire queste cose. La storia del calcio è piena di lamentele, di recriminazioni, di polemiche, di sospetti... E soprattutto nel post partita, quando sei realmente arrabbiato, quando sei ancora caldo, secondo me è fuori. Detto questo, Irrati, 7 giorni fa a Marassi, Sampdoria, Milan, aveva combinate di tutti i colori. Irrati e i suoi assistenti, con un paio di rigori negati, con il gol della Samp che era buono annullato, quindi forse, cioè, l'unica parte forti, è che magari, no? Irrati ha bisogno di un attimo, certo, di riflessione, diciamo. L'unica parte che si può prendere per buona, del discorso di Preziosi, 800 24 00 24, però abbiamo sentito anche questa, che i poteri forti sono tutti col Pescara. Pier, che idea ti stai facendo di questa giornata, che abbiamo detto ci sta togliendo l'illusione che alle spalle di Juve Napoli ci sia vita? Ma io credo che questa giornata sia una giornata in qualche modo che ci chiarisce su quello che è questo campionato, che è secondo me Juve-Napoli, perché la Roma ha iniziato in maniera completamente diversa dalla passata stagione, ha delle fragilità difensive che l'anno scorso non aveva, e mi sembra che anche il post partita caldo con Spalletti, insomma, poi so che ne avete parlato prima con Renga, confermi tutto questo. È una squadra abbastanza in costruzione dal punto di vista difensivo, soprattutto ha avuto anche qualche sfiga, va detto, perché poi sicuramente gli infortuni, soprattutto al reparto difensivo, da quelli del precampionato, Mario Rui, insomma, l'assetto non è mai stato quello. Insomma, la Roma ha una quantità di infortuni, la difesa della Roma ha più infortuni da sola, credo, di quelli che hanno Napoli e Juve messi insieme, quindi questo è un primo elemento. L'Inter, insomma, mi sembra che stia facendo dei passi avanti, però è ancora un po' dietro. Sì. Ancora un po' dietro. Oggi doveva vincere per dare una svolta ulteriore. Questa è un po' una frenata, al di là del fatto che poi le occasioni ci sono state, Ranocchi, eccetera, tutto il resto. Però mi sembra francamente che sia ancora una squadra un passettino indietro rispetto a quelle due. Quelle due vanno in maniera diversa, perché la Juve non è brillantissima, ma a maggior ragione proprio perché non è brillantissima e vince, questa cosa secondo me ha ancora più peso, e il Napoli che pure non è che sia spettacolarissimo nemmeno lui, però, sì, però insomma ieri ha vinto bene. Però certamente di condizione, come scrivono anche gli amici da casa, 349-238-6666, in questo momento sta meglio e corre di più della Juventus. Alessandro da Cesena, Alessandro. Sì, grazie per la convocazione. Alessandro da Cesena è juventino e vuole criticare Allegri. Te lo anticipo già, Giovanni. Non lo so. Juventino d'accordo. Va bene. Solo una piccola precisazione, sì, sui giornalisti. Va bene. Continuate a dire i due rigori per il Napoli. Sì. Ma i due rigori per il Napoli non c'erano, ce n'era uno, non due. Ma non scherziamo, Alessandro. Lo dico da Alessandro. Allora, mi interessa di più la tua opinione su Massimiliano Allegri rispetto ai dossier arbitrali, sinceramente. Grande Napoli, sicuramente grande Napoli. Ok, va bene. No, sto parlando della Juventus e di Allegri. Allegri così, sicuramente rivedibile. Hai visto. Rivedibile. Pier. Sì, stavo tanto chattando per Tiki-Taka, scusate, sì. Perché poi ci sono stato 4 ore praticamente senza wifi, ma questo agli ascoltatori proprio non interessa. No, no, a me interessa, con chi stavi chattando? No, con la chat di Tiki-Taka, che è un gruppo, in questo momento anche col signor Di Francesco, che saluto, magari sta anche ascoltando, e con il mister, con Eusebio. E dicevamo di Allegri, ma no, sui due rigori, di che volete parlare? Di Allegri? No, di Allegri, adesso i rigori Allegri, per il Napoli sì, interessano molto Genova, meno. Genova, però Allegri passiamo oltre, dai. Allegri è un grande allenatore e credo ovviamente che si debba aspettare di capire, però io sono molto curioso di vedere come va Conte in Inghilterra, perché credo che anche ci sia anche questo aspetto, no, da sottolineare, cioè il fatto che secondo me Allegri sta dando alla Juve una mentalità molto, molto più europea. Io credo che Conte ed Allegri siano stati due step perfetti, un po' come era successo al Milan con Sacchi e Capello, nel senso che uno è stato il rivoluzionario che ha riportato la squadra a vincere e ha fatto cose leggendarie, l'altro è stato molto bravo nel riuscire, attraverso uno stile diverso, managerialmente diverso, a continuare a vincere, che sappiamo in qualche caso forse anche più difficile. Comunque, insomma, non è questione di stabilire se uno vuole più bene a mamma o papà, se stima di più uno o l'altro. No, ma il problema è che uno dei due, i tifosi della Juve, non lo vogliono, non lo riconoscono. Non lo riconoscono. Sappiamo qual è quello dei due. I tifosi della Juve intelligenti, secondo me, sì. No, ma sono tutti intelligenti. E io non ho verità. È una sensibilità diversa, evidentemente. Insomma, non piace. Non piace. Sì, ma non è che secondo me non è questione che non piace, è che ci sono delle componenti irrazionali che possono legare o non legare un allenatore a un club. Lippi all'Inter è stato respinto come un corpo estraneo, Ancelotti alla Juve ha faticato tantissimo, poi ha perso il campionato all'ultima giornata, ma in ogni caso era vissuto come qualcosa di diverso rispetto all'ambiente Juve. E allo stesso modo io credo che Allegri, pure ovviamente si è guadagnato in questi ultimi anni, visto che ha fatto benissimo, perché non ci dimentichiamo che la Juve è stata la prima squadra nella storia del calcio italiano che ha vinto campionato e Coppa Italia per 2 anni consecutivi, non è esattamente un dettaglio. Ma tu non lo devi dire a noi, lo devi dire a quelli che oggi hanno telefonato per dire ancora perso con i prescritti volta, è una ferita che non si rimargina. Ma secondo te, se fosse stato Conte in panchina per la Juventus a Palermo avrebbero fatto tutto sto casino? No, avrebbero incassato i 3 punti e detto grande squadra che vince giocando male. Sì, però insomma, io ripeto, siccome non c'è Mannheimer, cioè, sono d'accordo con voi, lo so, lo sappiamo, ne parliamo ultimamente. Noi parliamo dal nostro spaccato. No, il nostro spaccato è questo. Sicuramente Allegri ha sicuramente un po' più la strada di salita rispetto a Conte. Questo non c'è dubbio, allora, in particolar modo la Juve. Vi devo fermare, Salvatore della provincia di Cremona, ripartiamo subito dopo il traffico con lui, c'è il traffico, torniamo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tutti convocati. Tanto stiamo rivedendo il fallo di mano di Zampano che ha mandato su tutte le furie Preziosi. Sì, onestamente non ha torto su questo episodio. Poi sui poteri forti che vogliono tenere il Pescara in Serie A, parliamone. Poteri forti, Pescara in Serie A. Salvatore dalla provincia di Cremona. Salvatore. Eccomi. Innanzitutto grazie per la convocazione. Grazie riguarda me, riguarda anche Filippo, che il mio cane Bassotto è in auto con me. Io sto rientrando da Torino. Salutiamo Filippo con grande affetto. Se lo sentite abbaiare lui, no? Sono ancora vivo. Io rientro da Torino, ho visto Torino-Roma. Non è nel mio stile, perché reputo di essere una persona estremamente obiettiva e sportiva e dire le cose come stanno. Visto che state parlando però delle lamentele di Preziosi, mi inserisco su questo discorso e se non si farà sentire Gairo sarà evidentemente la curva Maradona che dice la sua. Oggi ho assistito a una partita bellissima, un primo tempo peraltro molto equilibrato, quindi giocata bene da ambo le parti. Il secondo tempo poi il Torino ha preso il sopravvento, secondo me Spalletti ha fatto una serie di errori, ma questo lo lascio a voi questo lavoro. La mia nota era questa: all'inizio del secondo tempo entra Totti, tutto lo stadio ha applaudito Totti, sì, dando prova se c'era molto bisogno, bravo, di, bravo, grande attività. Ecco, c'è Filippo che reclama, infatti. Però ecco, ho notato un arbitraggio a dir poco scandaloso. Tagliamento non mi è piaciuto per nulla. Io non ho avuto ancora l'occasione di rivedere il replay del rigore poi dato alla Roma, ma credetemi, nelle azioni, nei falli monodirezionali, a un certo punto al secondo tempo esasperata, la tifoseria lo ha anche fischiato. Bisogna darne atto. Tagliavento, quando arbitra il Torino, arbitra sempre in maniera scandalosa. È una cosa che mi ha lasciato, ha rovinato adesso, quell'atmosfera di sportività, di bellezza della partita. No, posso farti una domanda? Dove hai lasciato Filippo mentre era allo stadio? No, Filippo l'ho affidato a persone a me care, ci mancherebbe, l'avrei voluto portare allo stadio. Mi muovo sempre con lui, però l'ho affidato a Perché mi interessa, sinceramente mi interessa molto di più questo argomento rispetto ai dossier arbitrali. Però mi è dispiaciuto perché ha rischiato di una partita molto leale, molto sportiva, gioiosa. Cioè, vi faccio notare solo una cosa: a un certo punto Nainggolan in azione fa un fallo, lui si è girato, gli ha fatto segno, come a dire, appena si ferma il gioco ti ammonisco, non l'ha più ammonito. Però Salvatore, io siccome noi purtroppo abbiamo questo difetto che Pierluigi Pardo conosce, che spesso devi seguire 6, 7, 5, 8 partite preparando una trasmissione e non è sempre facile essere lucidissimi, sono andato a recuperare la moviola di Sport Mediaset che è pubblicata online in questo momento. E io devo dire, a me era parso a occhio che i rigori di Torino-Roma ci fossero tutti e due, che quindi Tagliavento meritasse un'ampia sufficienza. Devo dire, Salvatore, che leggo la moviola di Sport Mediaset e dice la stessa cosa, insomma. Quindi, però possiamo anche parlarne. Saluto Pierpaolo Marino intanto. Direttore, buongiorno. Ciao direttore. Ciao. Buonasera, ciao. Poi ciao. Recuperiamo anche Claudio della provincia di Macerata, perché c'è un altro aspetto di questo duello tra Juve e Napoli di cui mi piace parlare oggi. Siamo arrivati alla quinta partita, bene, con un po' di stanchezza sicuramente, e abbiamo trovato anche un ottimo Palermo. E vincere 1-0 fa sempre bene, perché un'altra vittoria 3-0 sicuramente ci faceva allentare l'attenzione e la tensione. Ho detto che quando ci sono partite di questo tipo, quando ci sono episodi di questo tipo, è chiaro, in sala stampa, le prime domande vengono fatte su questo argomento. Mi interesserebbe non parlarne assolutamente. Quindi non si aspettava la risposta di De Laurentiis in quei termini? No, perché probabilmente il Presidente è arrivata una voce che io pretendevo che parlasse qualcuno della società. Ci sta di giocare male in un campionato, le partite che si giocano male, però bisogna vincerle. Questa è la cosa importante, perché a me di dire che gioca la Juventus, si gioca molto bene, però poi dopo pareggia. Oggi magari giocavi meglio e pareggiavi, allora preferite giocare male e vincere. Questo non vuol dire che la Juventus deve giocare meglio. Io avevo la sensazione, che poi ho controllato il nostro addetto stampa, che il Presidente non avesse mai parlato di un Napoli competitivo per lo scudetto. Il Presidente ha sempre parlato di un sogno, ma non ha mai parlato di altro, quindi mi sembra in definitiva la differenza di vedute non sia così ampia come si è voluto far credere. La cosa di cui voglio parlare è l'esercizio, a mio parere, di puro autolesionismo di cui si sta rendendo protagonista il Napoli in questo inizio di stagione, con un tutti contro tutti: Sarri, De Laurentiis, il San Paolo semivuoto che contesta De Laurentiis, però poi c'è chi contesta. Io non so come la pensa Pierpaolo Marino, direttore. Sì, veramente un peccato, perché oggi il Napoli è una grande realtà, è l'unica vera antagonista, diciamolo tutta della Juventus, perché sappiamo che la Juventus ha sempre questi momenti problematici iniziali tipici della preparazione del metodo di Allegri, quindi anzi quest'anno ha raccolto già più punti rispetto agli anni peggiori di Allegri come inizi. Diciamo che non si capisce perché De Laurentiis, che mette i prezzi alti in curva nella città con reddito più basso, uno dei redditi pro capite più bassi, mentre la squadra ha uno stadio da 60-70 mila posti che dovrebbe essere riempito, quindi c'è molta offerta di biglietti che non si giustifica un prezzo alto ai popolari. Questa diatriba con Sarri, che dovrebbe essere diciamo soltanto che accompagnato in quel lavoro che sta facendo. E questo dispiace perché è un momento invece che ci dovrebbe una compattezza. Sì, però posso dirti, direttore, io in questa diatriba con Sarri sulle questioni, sul solito dossier arbitrale, io sto dalla parte di De Laurentiis, poi sui biglietti in curva, guarda, vediamo. Sì, no, ma hai ragione. Il problema è che però, diciamo la verità, le dichiarazioni di De Laurentiis sono corrette. Però è il pensiero di De Laurentiis quello? Perché se andiamo a guardare come la pensa De Laurentiis in altre 300 interviste precedenti, non è così, perché lui ha sempre contestato il sistema, gli arbitri, non ha mai accettato, ricordo delle polemiche furiose dopo un nostro pareggio con l'Atalanta a Napoli, che avevamo pareggiato in 10 contro 11, e lui, cioè per esempio, però mi sembra che la risposta di De Laurentiis, che è di stile, che è corretta e sono d'accordo perfettamente con te, però mi sembra più provocata da Sarri che non il suo pensiero esatto. No, ma io chiedo direttore, che vada letto tutto poi alla luce della seconda metà di quella risposta, cioè quando prende per le orecchie Sarri e gli dice smettila di citarmi sta storia che siamo il quinto fatturato e dobbiamo arrivare quinti perché questa è una balla colossale. È certo, lì credo che sia il cuore di tutto. Certo. Pardo, cioè, chi ha ragione secondo te fra Sarri e De Laurentiis? Ma non è che c'è qualcuno che ha ragione e qualcuno che ha torto. Io credo questo, che sinceramente stiamo parlando di un bravo presidente e di un grande allenatore. Cioè non è che c'è molto da discutere ed è abbastanza paradossale che litighino uno con l'altro, quantomeno ci sia dialettica. Fa un po' ridere Sarri onestamente quando dice non ho capito perché dove il presidente ha sentito. Il presidente ha sentito quello che dobbiamo sentire tutti. Lui legittimamente a fine partita preda l'adrenalina, si è lamentato e ha chiesto l'intervento della società. La società gli ha risposto picche, gli ha ricordato che insomma si aspetta molto da lui. Questi discorsi andrebbero, no, i famosi panni che vanno lavati nel chiuso, esatto, di uno spogliatoio. Questa cosa qui non aiuta. Poi solamente la Prentice dovrebbe cambiare la politica dei prezzi sicuramente, dovrebbe fare delle operazioni di simpatia nei confronti dei tifosi che secondo me non fa. È abbastanza paradossale francamente che ci siano dei cori contro De Laurentiis con la squadra seconda in classifica l'anno scorso, seconda in classifica quest'anno, con delle prospettive così valide, anche perché questa squadra, mi perdoneranno a Napoli, ma non è il Real Madrid o il Barcellona che ha vinto 40 scudetti e 12 Champions League, faccio adesso sparando numeri a caso, è una squadra che negli anni ha vissuto addirittura la Lega Pro, la Serie C, quindi di che stiamo parlando? Mi sembra veramente incomprensibile tutto questo. No, però, credo che però sia un problema di comunicazione, credo sia un problema essenzialmente di comunicazione. Pronto? Sì. Prego. Sì, scusa, ti volevo dire una cosa, io posso far tesoro della mia lunga esperienza a Napoli, soprattutto dell'esperienza precedente, quella degli anni Ottanta, ma guarda che Ferlaino, che è il presidente che ha portato Maradona e che ha vinto di più a Napoli, Coppa UEFA, due scudetti, era contestatissimo. Cioè non è, Napoli è una città che, in cui tu devi saperti rapportare con la gente. Se uno dice faccio uno stadio che deve essere un salotto e a Napoli la squadra è popolare in quanto è il pane quotidiano di quelli che soffrono la disoccupazione, soffrono il reddito basso e si possono distrarre solo con il Napoli, tu gli vuoi fare uno stadio da 15-20 mila e lo dichiari, cioè è chiaro che la gente non è che gli fa piacere, poi gli interessa di meno se tu arrivi secondo, magari sì, se io, vinci ti perdona io, per un anno. Sì, per carità, però direttore, io credo anche che un presidente che da 2 anni ha 6-7 mila abbonati abbia anche legittimamente a un certo punto le scatole piene. Ma infatti si deve chiedere se ad opera una comunicazione corretta come quello diceva per Luigi e se poi fa una politica di prezzi per lo stadio corretta, perché il Napoli con 60.000 posti dovrebbe favorire una politica di prezzi popolari, non certamente non solo il Napoli. Guarda, mi permetti, ragazzi, direttore, credo, no, credo non che solo la il Napoli credo che la comunicazione nel mondo di oggi, scusate la banalità, non dico che sia tutto ma è moltissimo, e questo vale secondo me anche per quanto riguarda per esempio lo Tito. Io credo che lo Tito a Roma paghi essenzialmente nel rapporto con i tifosi questo aspetto, perché se andiamo a guardare i risultati da un punto di vista oggettivo non sono risultati catastrofici, tutt'altro, la Lazio alla fine in un modo o nell'altro riesce sempre a essere competitiva, poi magari non fa il salto, sicuramente non fa il salto, però francamente non sono risultati catastrofici che possono autorizzare l'astio che c'è nei confronti del presidente, quindi vuol dire che c'è qualche elemento esterno, e però secondo me ci sono anche delle responsabilità dei presidenti che devono capire come prendere i tifosi e come comunicare con i tifosi, e Napoli secondo me in qualche modo è un caso simile, perché veramente è paradossale che una società gestita in questa maniera, secondo me con delle prospettive molto solide, qui c'è Pierpaolo Marino, Napoli sta sistemando i contratti con un anno e mezzo d'anticipo, sta andando a ritoccare i contratti di gente in scadenza nel 2018, Albiol 2017-2018, di vari Albiol, Isai, Gabbiadini, cioè sta facendo proprio le cose che fanno le società serie che si portano avanti col lavoro, no? Quindi merita un applauso. Su questo aspetto diciamo che il Napoli non ha niente da rimproverarsi, chiaro che ha fatto anche tesoro dell'esperienza con Higuain, dove è arrivato a 2 anni dalla scadenza e chiaramente non c'era più possibilità di rinnovo, però io dico che il presidente deve rendersi conto che il Napoli non è un'azienda diciamo privata tipica, è un patrimonio anche dei napoletani, per cui tu devi anche avere delle volte degli atteggiamenti che sono di apertura nei confronti della gente che ama il Napoli, che comunque costituisce quel bacino di 4-5 milioni di tifosi che ti permette di prendere quei diritti televisivi che poi fanno la differenza nella costruzione della squadra e ti consentono di competere e di avere un bilancio in equilibrio. Questo è il ragionamento, perché altrimenti sì, però quello che resta è davvero autolesionismo allo stato puro, e diventa difficile trovare torti e ragioni, secondo me, anche messi insieme tutti i limiti di comunicazione, però dobbiamo fermarci perché siamo lunghi sulla pausa di metà ora. Grazie direttore. Prego, ciao direttore, alla prossima. Ciao direttore, grazie, torniamo subito. Tutti convocati. Qui è altro che Ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Veramente volentieri, infatti mi fermo anche dopo a Firenze a prescindere dall'esito della partita, quindi questa la dice lunga su quanto mi sia piaciuto vivere a Firenze e per quanto ci sia ancora legato. Che eredità ha lasciato Montella? Credo che non solo da lui, ma già prima si è creato un'idea cercando di averci una squadra che cerchi di esserci costruttiva, propositiva, e non viene solo di Vincenzo, viene, credo io, già di Prandelli. Il nostro presidente piace estremamente giocare bene a calcio, quindi bisogna conquistare prima lui e poi i tifosi, perché lui stesso è un tifoso, quindi diciamo così è il principio lo stesso, ma se non fossi adesso allenatore del Milan e guardassi il Milan sicuramente penserei che c'è una strategia per poter crescere nel tempo attraverso questi principi che hanno caratterizzato il Milan. Questo Milan è in grado di inserirsi nella lotta a scudetto? Nella lotta a scudetto non credo, ma credo che nella lotta dei primi posti sì, ha una società importante alle spalle, in tutti i sensi, no? E vede anche sulla questione inviato di questo calendario, c'ha sempre un giorno in più degli altri avversari, e questo vuol dire tanto. Ospizione pietà. Oh, e Paolo Sosa l'ha buttata lì, su sta storia che il Milan ha sempre 24 ore in più di riposo. Saluto Delio Rossi, mister, buonasera. Buonasera a voi. Oh, perché il paradosso è che questa sera potrebbe uscire la terza forza, almeno momentanea, del campionato, se il Milan vince è terzo, La Fiorentina è un po' più staccata, ma in realtà ha una partita in meno, perché deve ancora giocare quasi tutta la sfida di Marassi contro il Genoa e volendo potrebbe anche essere virtualmente terza in classifica. Che prospettive hanno, visto anche cosa ci stanno mostrando Inter e Roma, Fiorentina e Milan, mister? Ma io penso che arriveranno a ridosso delle prime, non penso che arriveranno tra le prime. Sono ancora lontane secondo te dalla zona Champions, per intenderci? Posso chiederti chi ti piace di più tra Fiorentina e Milan? Cioè come squadra, come struttura, come talento, come costruzione, non come formazioni o cose del genere. Chi ti piacerebbe di più allenare tra Fiorentina e Milan, soltanto per il talento che hanno a disposizione? Sono delle squadre che per lottare al vertice, almeno in questo momento, sono incomplete. Che mi piacerebbe allenare forse di più la Fiorentina, rispetto, perché penso che sia ancora più completa il Milan rispetto alla Fiorentina. Il che secondo me mette un ulteriore merito al lavoro che sta facendo Montella. Sicuramente sì, adesso sta facendo un buon lavoro, c'ha un buon materiale, perché stiamo parlando di una squadra che può arrivare tranquillamente dal terzo al sesto posto come valore di giocatori, ma questo penso che valga anche per la Fiorentina e penso che stia in quel range lì. Pardo. Ma insomma, mi sembrano due squadre ancora incompiute. Io non so se la Fiorentina sia avanti al Milan. Io l'ho vista contro la Roma, la Fiorentina, la sto vedendo abbastanza spesso in questo inizio di stagione. Mi sembra una squadra un po' in calo, invece dal punto di vista del talento abbastanza simile alla passata stagione. Il Milan deve riuscire a scrollarsi di dosso il pensiero di quello che è stato, cioè è un Milan distantissimo dal Milan glorioso degli anni scorsi e tante volte questo tipo di paragone con il passato, secondo me, soprattutto a San Siro, in questi anni è stato condizionante. Montella sta dando un gioco, una fisionomia alla squadra. Da quando è arrivato si è rimesso a giocare a pallone e secondo me i risultati si cominciano a vedere, però è ovvio che ci saranno stop and go, per esempio con l'Udinese. Cioè è una squadra che non ha la forza, la qualità per poter essere, secondo me, continua, e quindi avrà delle crisi di crescita, però c'è quei momenti a mantenere l'ambiente compatto, un po' come è successo dopo la sconfitta con l'Udinese, quando il Milan si è messo lì testa bassa e ha tirato fuori 6 punti in 2 partite, anche se certamente a Marassi la partita è stata anche condizionata di episodi, però insomma intanto è uscita fuori da una situazione non semplicissima. Stasera, chiaramente anche per motivi strettamente di classifica, basta guardarla, è la partita della maturità. Cioè se Milan dovesse vincere a Firenze, a quel punto sarebbe la terza vittoria consecutiva e sarebbe un salto in avanti che aprirebbe scenari piuttosto interessanti. Sì, rimane cronaca, Pierluigi, poi di fatto e di fondo ha ragione mister Deglio Rossi, cioè sono due squadre comunque distanti dal vertice. Certo. Non hai torto quando dici che la Fiorentina forse è in un grafico leggermente discendente rispetto al recente passato. Il Milan ha un grosso problema di fondo, che è quello di una proprietà ancora non chiarissima e di prospettive societarie ancora non chiarissime. Sì, non ancora delineate. Mi piacerebbe invece sapere da Deglio Rossi se questa idea dei tanti giovani, dei tanti italiani gli piace, cioè è semplicemente frutto del momento, cioè Milan che non ha investito, non aveva soldi da investire, o se forse di questa rosa si sta seminando davvero qualcosa che può poi rimanere. Donnarumma è un esempio, ma al di là di Donnarumma, che evidentemente è un giovane fuori media rispetto all'età, mister? No, non penso che sia frutto del momento, perché se fosse frutto del momento anche altre squadre ci avrebbero molti più italiani. Invece vedo che sono pochissime le squadre che hanno italiani, forse c'è Sassuolo che ha qualche italiano più delle altre. No, penso che sia frutto di un lavoro che è stato fatto, poi ti capita anche dei giocatori che hanno qualcosa in più, perché non è normale un ragazzo di 17 anni che è già in nazionale e era partito, mi sembra, quarto portiere, è diventato primo portiere, significa che a 17 anni se giochi al San Siro, giochi nel Milan, c'è qualcosa in più degli altri. Però penso che sia giusto, doveroso che ci si rivolga agli italiani. Secondo me non ci si fa niente magari per far crescere gli italiani, questo sì, ma parlo proprio di strutture, cioè proprio di politica federale che rispetto agli altri ci penalizza, rispetto, sì, agli altri, rispetto agli altri, agli altri paesi. Sì, sì, il Milan è un po' un'eccezione e lo è anche per questioni storiche. Ringrazio Delio Rossi, grazie mister. Grazie mister. Ciao. Ci sono altri che fanno scelte diverse, non tanto magari sui giovani, perché ad esempio oggi l'Inter ha chiuso con 2,96 e 1,97 in campo, non italiani, ma in parte anche frutto del settore giovanile come Niang e Gnukuri. Sì. A me sembra sempre, poi non bisogna farsi condizionare dai risultati, però mi sembra che De Vero, De Bruyne, sempre Benitez stia portando delle cose nuove, delle cose anche un po' naif, delle cose che potrebbero anche non funzionare, un po' come fece per esempio Luis Enrique nella sua esperienza alla Roma di qualche anno fa. Anche queste regole comportamentali diverse, le partenze in giornata senza ritiro, una serie di meccanismi e di codici, il famoso codice etico che anche la Roma quell'anno lì con Luis Enrique aveva adottato. Insomma, secondo me ci sono degli elementi di novità culturale, che è un po' il motivo per il quale quando l'Inter era in crisi, sì, le giornate spesso ripetevamo, no? Bisognava comunque aspettare, no? Aspetta che ti sta ascoltando De Boer, sì. che è d'accordo, tanto parla italiano, bravissimo, perché si sta sforzando. Sì. Sì. Ha sentito cosa ha detto Pierre? Ha detto che tutte queste novità, insomma, non è detto che poi resti che funzionino. Sì. Sì. Importante sempre che equipa, tuo giocatore, sì, capiscano. Condobia non capisce. La giocatori è molto importante, non solo fisicamente, però filosofia, come affrontiamo. Hai capito, Pierre? Hai capito? Imitazione bellissima. Complimenti. C'è il traffico. Sì. Frank, puoi lanciare il traffico? Sì. Sì. Anche no. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Sanchez col tocco sotto, Alexis Sanchez all'undicesimo, Arsenal in vantaggio. Gran palla Bellerin in mezzo a Walcott, Theo Walcott, azione meravigliosa dell'Arsenal. Sanchez palla di ritorno verso Ozil, vuole la volle col sinistro, Ozil 3-0. We must work a lot. We must work a lot. And if someone think that this team now is ready to fight, I think that we must wait. We must wait and work to improve a lot, to come back a great team, not only on the paper but on the pitch. And this is important. Questo è Conte che abbiamo evocato prima. Saluto Paolo Ciarravano. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Aspetta che c'è Claudio dalla provincia di Macerata che aspetta dalle guerre puniche. Claudio. Sì, buonasera ragazzi, siete i migliori in assoluto. Grazie. Allora, due domande su Conte. Secondo voi c'è la possibilità dell'esonero di Conte e se sì, la possibilità di rientrare al Milan in Italia? Sulla seconda ti dico di no, sulla prima faccio rispondere Paolo Ciarravano, collega che segue il calcio inglese per Sky. Io prego, dico Paolo. Di no anche sulla prima, mi sembra bizzarro. Allora, Abramovic è uno con il quale non bisogna mai escludere nulla. Abramovic è riuscito a esonerare l'anno scorso, di fatto, anche se poi si è trovata una formula più soft, parlando di gentleman agreement, di mutual consent per la precisione, è riuscito a mandare a casa Mourinho, che al Chelsea era qualcosa di simile a quello che è stato Ferguson al Manchester United, era casa sua, come ha detto Mourinho quando è tornato. Quindi Abramovich è uno capace di tutto, quindi nulla è escluso. Detto questo, sarebbe secondo me sbagliato, nonché prematuro, mandare via Conte, soprattutto direi alla luce di una cosa, alla luce del fatto che il nuovo Chelsea in realtà è il vecchio Chelsea, quindi quello che è arrivato decimo l'anno scorso, con l'innesto di Kanté. Per il resto sono tante scommesse, una su tutte è David Luiz, ma a parte Kanté non è stato mai preso il primo della lista nei ruoli, nei reparti dove Conte voleva essere rinforzato, voleva rinforzare il Chelsea. E poi credo, Paolo, sapere, per la prima volta Conte non abbia una difesa forte, cioè lui ha sempre fondato le sue imprese su una difesa forte. Ieri abbiamo visto, insomma, ma ne abbiamo avuto la conferma, quella del Chelsea forte non è, e David Luiz è quel giocatore un po' equivoco, un po' ballerino lì dietro, che abbiamo conosciuto in tutta la sua carriera. Sì, è un difensore assolutamente naif, perché attacca molto meglio di quanto difenda, tanto che per esempio Benitez a volte l'ha fatto giocare da centrocampista. Non era non solo il primo della lista di Conte, ma non era nella lista di Conte per il rinforzo difensivo. Lea Koulibaly, lo sappiamo, ha chiamato lui stesso De Laurentiis per provarci, non c'è riuscito. Poi bisogna vedere, ecco, come valuterà Abramovich tutto questo, se poi farà una colpa di tutto questo a Conte perché il Chelsea non si è rinforzato. Quello però è una cosa che possono sapere solo loro. Pierre? No, io condivido pienamente la stima che ho fatto di Conte, non è in discussione. Io ho un solo dubbio e vorrei sentire anche Ciarravano su questo. Cioè, io credo che Conte in Italia abbia fatto le cose straordinarie, puntando moltissimo sull'intensità che lui riesce a dare, che è internamente qualcosa che fa la differenza, al di là della qualità della rosa. Quindi non è che sto scaricando Conte, voglio essere chiaro. Conte l'ho sostenuto anche 2 anni fa quando si era da prenderlo per la nazionale. Sono straconvinto che sia stata la scelta giusta e che abbia dimostrato cose importanti anche in nazionale. Detto questo, la domanda che mi faccio, al netto del fatto che il Chelsea comunque da oggi non è una grande Inghilterra, 53 gol subiti l'anno scorso, il 10° posto, quindi questo è fuori discussione, però secondo me si sta alzando l'asticella del gioco. Cioè, adesso quando Conte affronta Wenger, quando affronta Mourinho, quando affronta Guardiola, insomma, è complicato, eh? Non basta secondo me essere un allenatore straordinario, appunto, dell'intensità, nell'essere un martello con delle idee di calcio positive e raffinate, bisogna fare un salto di qualità, e questo è secondo me la grande sfida di Conte di quest'anno. L'affronta con una squadra che non è una squadra sicuramente all'altezza delle primissime in Inghilterra, però non è neanche una squadra da buttare. Anche qui non vorrei che poi succedesse un caso Sarri De Laurentiis B, che magari Conte dice che è una squadra costruita per il 10° posto e ad Abramovich non gli va bene. No, beh, vorrei che capitasse. Avrebbe, credo, Paolo, anche ragione. Sto scherzando, però voglio dirti, insomma, il cortocircuito non è da escludere. Paolo? Secondo me Conte adesso vuole soprattutto una cosa, che gli sia dato tempo. Conte quando ricorda il 10° posto non lo ricorda perché vuole dire che questa è una squadra da 10° posto, lo sa anche lui che anche l'anno scorso il Chelsea non era da 10° posto, per questo poi è saltato Mourinho, per questo le cose sono andate molto male. Però è vero che il Chelsea parte da un 10° posto, quindi bisogna dare tempo a questo allenatore di costruire una nuova identità, un nuovo modo di giocare. Il mio punto di domanda, che affianco a quello che si è posto Pierluigi, è uno, cioè Conte vuole, lo ha detto chiaramente, iniziare l'azione, impostare da dietro. È questo il mio vero dubbio, la mia vera paura per Conte e per il suo futuro al Chelsea. La sensazione evidente, tangibile, vedendo le ultime partite del Chelsea, è che la squadra stia rigettando, ma non a livello di comportamenti, a livello tecnico, questa possibilità. Sì, sì. È poco costruita per quel tipo di calcio, e questo evidentemente o c'è bisogno di tanto tempo per lavorare o c'è un problema in fase di costruzione. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Grazie Paolo Ciaravano, grazie anche a Pierluigi Pardo. Ciao Piero, domani dopo il GR alle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carmelo Lauricella e Pietro Lacorte, che si sono alternati in regia, il nostro meraviglioso Andro Mercu con le sue voci. Domenica prossima, ciao. Sì, anche no. Se dico la parola scudetto, che fai? Mi prendi a male parole? Mi tocco le palle. Grazie, buonanotte a tutti.